Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, mi trovo nel cuore di Torino, sono davanti al castello, quello che dà nome alla piazza, Piazza Castello. In realtà questo luogo ha una storia molto particolare, si tratta di un palazzo di tantissime stratificazioni e la stratificazione più antica è ancora visibile. Due torri di questo castello, che nella parte retrostante sembra un castello medievale, in realtà sono le due torri della porta romana antica che segnala appunto l'uscita verso Vercelli dell'antica Augusta Taurinorum, questo era il nome di Torino. Questa porta era così munita che nel Medioevo ci costruirono addosso un castello e questo castello a un certo punto venne abitato dalla famiglia degli Acaia. Quando arrivarono a Torino nella seconda metà del Cinquecento i Savoia, che avevano la capitale a Chambéry e che la portarono a Torino in quell'occasione, questo castello entrò a far parte della sede degli edifici che i Savoia si prepararono come residenza. Quando Emanuele Filiberto, il primo Savoia ad abitare a Torino, arrivò, non c'era nessun palazzo ducale ad ospitarlo, quindi andò a vivere nel Palazzo del Vescovo e collegò il Palazzo del Vescovo con il castello. Questo castello cominciò ad avere una grande importanza nella prima metà del Seicento. Perché? Perché uno dei Savoia, Vittorio Amedeo I, sposò niente meno che la figlia del re di Francia, Maria Cristina di Borbone. Però purtroppo questo matrimonio durò poco perché il duca morì e Maria Cristina si trovò vedova con un figlio molto giovane e due cognati che insidiavano il suo potere. Questa signora venne chiamata da quel momento la Madama Reale e andò ad abitare proprio nel castello attaccato al Palazzo Ducale perché era più sicuro e il castello fu trasformato da lei in un bellissimo palazzo barocco. Questo palazzo, che prese il nome di Palazzo Madama, ancora oggi si chiama così, venne arricchito nel Settecento di una facciata completamente nuova, solo che la facciata venne affidata al più grande architetto del Settecento torinese, niente meno che al grande Filippo Juvarra, che creò uno scalone magniloquente per salire a casa della Madama Reale.